24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Nel mese di marzo vogliamo fare della RAI la più innovativa azienda di produzione culturale che esiste in Europa. Signore e signori, buon divertimento. Semplicemente, che cosa vende Rai Way? Le torri e gli apparati connessi, non le frequenze, che sono invece nella disponibilità e nel bilancio di Rai Spa. A-Towers, che gestisce le torri di trasmissione dei canali Mediaset, ha lanciato una cosiddetta offerta pubblica di acquisto e scambio per comprare Rai Way, il gruppo che gestisce le torri di trasmissione dove passa il segnale delle reti pubbliche. Un boccone succulento nel mercato delle telecomunicazioni, visto che in prospettiva potranno essere utilizzate anche per la telefonia mobile e per la navigazione internet ad altissima velocità. Chi prende questo settore prende un pezzo di potere in Italia. La notizia, diffusa di prima mattina, ha subito creato scompiglio. Mediaset mette gli occhi su un pezzo di Rai, uno dei più pregiati, Rai Way. E ovviamente deve dare il suo ok alla vendita chi detiene il controllo di Rai Way, cioè la Rai, cioè lo Stato. Il governo ha messo delle regole su Rai Way che non intende modificare, e sono le regole che riguardano il 51%. Punto, per me la discussione è finita. Daniele Doglio, professore di economia dei media. Ecco, l'OPA di Mediaset su Rai Way è al centro di una discussione economica e politica, lo abbiamo sentito, ma dal punto di vista del mercato, la Rai, l'operazione, cioè, è un'operazione che sarebbe normale oppure no? Allora, diciamo che dal punto di vista del mercato sarebbe normale se noi fossimo un paese normale e se il nostro mercato fosse normale. Diciamo che non è normale, è anomalo il fatto che ci sia un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e di scambio, per il 66,7% di un'azienda dove lo Stato ha ripetutamente ribadito che vuole mantenere il 50%. Ecco, ma se per lei nella soglia di presenza dello Stato per mantenerne la responsabilità, per garantirne la natura pubblica, è del 30%, perché per Rai Way deve essere del 51%? Beh, molto banalmente, perché in Enel non c'è nessun altro azionista che abbia il 70%, che è l'obiettivo dichiarato dell'OPA di Mediaset. È vero, adesso senza entrare in dettagli e tecnicalità giuridico-finanziarie, insomma, che per la minoranza di blocco basta il 33,4%. Infatti, esatto. Ma così non si fa strategia, si fa blocco. Sì. Ci si limita semplicemente a impedire a dire no. Che altri soggetti possano fare qualcosa di diverso. Insomma. Ma dal punto di vista del mercato, ha senso impedire un'OPA? Dal punto di vista del mercato, in maniera pura e assoluta, no. Considerando soprattutto che in questo caso sono stati investiti da entrambi i soggetti cifre di cui ci si dimentica di parlare, sia Mediaset che Rai hanno investito circa 1 miliardo per aggiornare la loro rete, e la cosa potrebbe avere un gran senso, lo dico rendendomi conto che è politicamente sensibile, su una società al 50%. Ma perché chiedere la maggioranza assoluta di controllo? E poi soprattutto le torri, vabbè, quella può essere una strategia, non sono il futuro, e nessuna delle due fa telefonia cellulare. Ora, avere delle torri con l'obiettivo di renderle disponibili anche alla telefonia cellulare in vista e in prospettiva della larga banda mobile, infatti, eccetera eccetera, ma insomma, con quel tipo può essere un investimento strategico, no? Può essere un investimento strategico, ma se è un investimento strategico dove lo Stato decide di mantenere una posizione, allora potrebbe essere un accordo, ripeto, al 50%. Così come è stato formulato è stato poco ortodosso, anche in qualche modo sgarbato, e ha creato inevitabilmente tutto lo scaramazzo. Ecco, ma non è che soprattutto tutto questo scaramazzo, come dice lei, è figlio del fatto che vengono al pettine i nodi della mancata regolamentazione del conflitto di interessi? Perché in un mercato normale uno che vuole comprarsi fa un'OPA per il 100%, perché no? Ma in un mercato normale non succede quello che storicamente succede. No, appunto, allora volevo dire, non è che il mercato, non è che semplicemente il mercato fa quello che il legislatore non è stato capace di fare. Guardi, è è chiaro che questo è il punto fondamentale, perché ci si dimentica, e questo è un aspetto che secondo me va richiamato, che Rai e Mediaset sono già soci al 50% in una società che si chiama TVSAT, che è stata costituita come piattaforma satellitare proprio per riempire i buchi del digitale terrestre. Appunto, che data l'orografia del paese non riesce ad arrivare bene da tutte le parti. Per quello nessuno dice niente, e per questo citavo il riferimento al 50%, è stato fatto per la piattaforma satellitare, che non è altro che un'integrazione della piattaforma digitale terrestre, con caratteristiche tecniche diverse, ma allora per quello non succede, non esplode l'ansia, perché nessuno se ne ricorda. Certo. Per questo invece vengono, come dice lei, al pettine certi nodi che sono tutti politici. Ecco, ma professor Doglio, è normale che siano separate in generale la rete di distribuzione da quella dei produttori di contenuti o no? Allora, diciamo che è così in tutta Europa dagli anni 90, in parte anche negli Stati Uniti. È così anche perché, senza stare a fare storia, ma è sempre opportuno fare dei riferimenti, le torri, le reti di torri hanno perso peso strategico negli anni 90 quando la tecnologia del satellite e del cavo ha reso possibile la diffusione del segnale televisivo in altri modi. Certo. In questo caso è nata naturalmente la separazione fra reti di distribuzione e produttori di contenuti, ma oggi che la chiave del futuro sono le reti a larga banda di nuova generazione, prevalentemente di origine telefonica, come si fa a dire a Telecom Italia che non può acquisire i diritti del calcio come ha fatto British Telecom per l'Inghilterra? Infatti, io volevo farle questa domanda, infatti, professor Doglio, ma c'è un'analogia con la battaglia per la rete di Telecom? Diciamo che sì e no, come sempre, l'obiettivo è lo stesso, ma la rete in fibra è un'altra cosa dal punto di vista delle dimensioni degli investimenti. Sì, però il governo tende a dire a Telecom quello che deve fare, Telecom è una società privata. La mia sensazione è che più che un ritorno allo stato imprenditore, siamo di fronte a un governo che sta cercando di scrostare tutta una serie di concrezioni che negli anni, per i motivi che abbiamo detto prima, su cui è inutile tornare, si sono andati appunto concretizzando. Per farlo ci vogliono anche delle azioni di tipo provocatorio. Io ho letto così la minaccia poi non confermata della chiusura della rete in rame entro il 2030, anche perché, come lei ha detto giustamente, Telecom è una società privata. Appunto. Come si fa a dirgli che deve dismettere della rete in rame, a meno che non gli si offra in cambio una serie di incentivi economici? Vabbè, che valgono dal punto di vista imprenditoriale secondo le decisioni degli azionisti. Assolutamente. Mario, è cominciata la guerra nuova delle telecomunicazioni, torniamo. È molto interessante il risico delle torri, l'ho battezzato io, diciamo. Cosa succede? TVSAT, sì, cioè Rai e Mediaset al 50% in TVSAT e non in RaiWay. C'è una ragione? No, non c'è nessuna ragione. È solo politica. Esattamente, non c'è nessuna ragione industriale, anzi, diciamo, le leggi dell'economia suggerirebbero al pubblico di calare con la sua quota sotto la quota di maggioranza e cedere fare l'operazione con i privati, sostanzialmente avendo un solo operatore. Vorrei ricordare, molti lo sanno, altri no, che sulle torri passeranno i dati di ultima generazione, cioè la banda ultra larga. È un servizio. È un gran servizio, è un servizio, una cosa seria, è l'infrastruttura di un paese. È importante che non sia gestita in realtà dallo Stato e dalla RAI, sostanzialmente, è sbagliato, non è il suo mestiere. È solo politica la questione, e però a mio parere conferma al contrario quello che Berlusconi aveva fatto all'inizio con la sua discesa in campo. Entrò in politica avendo un interesse ben preciso, adesso invece ne esce, e ne esce proprio presentandosi davanti a questo affare specialissimo, che è quello delle telecomunicazioni. Se ne esce, questo lo vedremo, e intanto banche. Ha avuto degli stress ultimamente? Sì, ce l'ho avuto lo stress. Sulla base di ciò che lei mi ha detto sulle sue crisi, direi che si tratta di quello, allora. Come? Solo stress? Solo stress. Che stress di giorno, ma la notte no. Ora sei sotto pressione. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Cioè, respira a fondo, poi. Mi batte forte il cuore come un mitra. Rilassati. Sei in iperventilazione, non è niente. Respira in questo sacchetto, prendi aria e buttala fuori. Dentro, fuori. Dentro. È entrata in vigore la vigilanza unica europea per 130 banche, di cui 15 sono italiane. Allora, cerchiamo di capire quali cambiamenti comporta per le banche italiane che sono coinvolte e come è stata, soprattutto, come è stata misurata la salute dei nostri istituti bancari attraverso gli oramai notissimi stress test. Ecco, Paolo Savona, economista, a cosa serve avere un sistema unico di vigilanza europeo? È coerente col fatto che abbiamo un'unica moneta e quindi dobbiamo avere un unico mercato. Ma sono più i vantaggi o gli svantaggi? Guardi, nella tale situazione lei parla con uno che sostiene che oggi l'architettura europea è imperfetta e quindi ogni cessione ulteriore di potere senza soluzione dei problemi di fondo non può funzionare. Perché questo in realtà comporta nuove regole a cui devono attenersi le nostre 15 banche. Questo non c'è dubbio, beh, più che di nuove regole, perché la vigilanza italiana era abbastanza stretta. C'è stato questo discorso di fondo che, avendo ignorato i derivati, che sono una parte molto importante delle banche, delle altre banche europee, le banche italiane da questo punto di vista sono risultate svantaggiate. Senta cosa risponde Daniel Nui, presidente della Commissione di Vigilanza Unica Europea, all'eurodeputato Soru, che gli chiede proprio conto dei parametri degli stress test. Come mai questi stress test, queste analisi non hanno debitamente considerato altri fattori di rischio, come soprattutto i contratti derivati? Uno stress test non può valutare tutti i rischi, è impossibile questo, sarebbe stato necessario più tempo. Beh, professore, è abbastanza impressionante, no, la risposta? Grave, non impressionante, grave, perché il problema grave dei derivati è che, non essendo facilmente valutabili, sono quelli a più alto rischio rispetto ai crediti concessi alle imprese. Ma soprattutto le banche francesi e tedesche ne hanno molti di più. Sì, certo, comunque non è questo l'aspetto principale. L'aspetto principale del problema bancario è che, se le banche non finanziano le imprese, non finanziano il mondo produttivo e raccolgono depositi per utilizzarli a fini speculativi finanziari, ritengo che il problema di fondo sia questo e occorre un intervento radicale. E intanto però, sulla base dei risultati degli stress test, sono state decise le ricapitalizzazioni che le singole banche dovevano fare, quindi un fiume di soldi che si poteva risparmiare in qualche modo. No, capisco che il capitale diminuisce i rischi, chiamiamolo, dei governi, della banca centrale e in fondo anche dei depositanti, tuttavia non è possibile continuare in un momento di crisi a chiedere aumenti di capitale, quindi scoraggiando il finanziamento alle imprese. Il problema principale, che è come veicolare i depositi al finanziamento della produzione e dell'occupazione, è un problema ignorato sia della Banca Centrale Europea, sia della Banca Centrale Italiana e sia in particolare dell'Europa. Ma perché è ignorato? Beh, è ignorato perché cercano ciascuno di ridurre le proprie responsabilità, è ignorato perché vogliono praticamente coprirsi completamente dai rischi che le autorità corrono, scaricando sulle banche l'onere di metterci soldi propri. Questo, devo dire, è un braccio di ferro che, in una situazione di crisi, peggiora questa situazione. E a cosa può portare questo braccio di ferro? Al peggioramento, come è successo in Italia, al peggioramento delle condizioni operative e dell'economia e delle stesse banche, dove le sofferenze continuano a aumentare. Senta, professor Savona, lei ha detto che l'entusiasmo con cui è stato accolto il quantitative easing è sconfortante. Perché sconfortante? Perché in effetti marca una ulteriore rottura dell'unità politica europea, scaricando i rischi sulle banche centrali, le quali, qualora lo Stato non fosse in grado di affrontare il proprio debito, si troverebbero in difficoltà esse stesse. Quindi è stata creata un circolo vizioso dal quale non è facile uscire, o non sarà facile uscire in futuro. È un'ulteriore bardatura, per cui io ritengo, come cittadino italiano, di essere sconfortato da ciò che si sta facendo. Non si finanzia lo sviluppo e l'occupazione, si creano condizioni di difficoltà operativi alle banche e alle imprese e non si ha una visione politica di lungo periodo per portare il paese fuori dalle attuali situazioni. Ecco, lei ha anche detto, professor Savona, che il quantitative easing ci fa correre il rischio di trasformarci in una colonia politica di Berlino e Bruxelles. Aggiunge questi rischi a una possibilità già in atto ben nota, cioè il fatto che lentamente, disfandoci di porzioni di sovranità, finiamo una normale colonia dell'Ottocento. E quindi si sta andando sempre più verso un'Europa del Nord ricca e un'Europa del Sud sempre più in difficoltà? Un Nord sempre più ricca e un Sud sempre più povero. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ma allora perché la BCE nel suo agire non ha tenuto conto dei derivati per gli stress test? Andrea Boitani è professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Come abbiamo sentito, gli stress test effettuati dalla BCE su 130 banche dell'area dell'euro hanno adottato dei parametri che lasciano molti, molti dubbi. Ma la BCE ha raggiunto il suo scopo, cioè lo scopo che si era prefissato, così? La BCE ha fatto un'analisi più di tipo microeconomico, considerando quali sarebbero stati gli effetti, diciamo così, di una crisi sulla singola banca, sì, esattamente, certo. Senza focalizzare le ripercussioni di tipo sistemico di questo. Ha fatto l'analisi sulle singole banche, non sul sistema. Ecco, ma che cos'è il rischio sistemico in parole semplici? È il rischio, in parole semplici, che la potenziale crisi di un'intera economia abbia su una banca e i riflessi che la crisi di quella banca può avere sull'intero sistema economico. Ecco, ma dai calcoli prodotti dal V-Lab, che è un istituto prestigioso della New York University, esattamente, il sistema bancario che presenta il rischio sistemico più alto in realtà è quello francese, è vero? Esattamente, è vero, guardando ai dati del V-Lab è esattamente vero, cioè la Francia, diciamo agli inizi di febbraio di quest'anno, presenta un rischio sistemico misurato pari a circa il 13% del suo PIL. Ecco, però questo dato del V-Lab non coincide con l'analisi della BCE, che invece tra le prime 10 banche più a rischio non ne ha inserita nessuna francese, perché? Ripeto, sono diversi gli obiettivi dell'analisi e diversa la metodologia utilizzata. Il punto è che nell'analisi del rischio sistemico conta in maniera notevole la dimensione delle banche, perché ovviamente più grande è una banca e maggiori sono i suoi effetti, gli effetti di una sua potenziale crisi sull'intero sistema economico. E in Francia ci sono alcune grandi banche che hanno tanti problemi? Che hanno parecchi problemi, BNP Paribas, Crédit Agricole, la Société Générale e queste, ma in Germania per esempio Deutsche Bank si trova ai primi posti per... Ecco, ma per allora sistemico. Perché ci sono, come dire, analisi così divergenti? Alla fine, se sono analisi che danno risultati quasi opposti, a cosa servono? Ma diciamo l'approccio della BCE infatti è stato criticato, non siamo stati i primi, io e il mio collega Monticini sulla voce.info a farlo. Ci sono state altre critiche che sono uscite per esempio su Vox già a novembre dello scorso anno e partivano proprio da... Cioè sostanzialmente dati. Voi criticate cosa dell'analisi della BCE? Fatto di aver fatto un'analisi sostanzialmente statica e esclusivamente microeconomica. Con questo naturalmente diciamo, sono emersi delle situazioni critiche che da un punto di vista sistemico sono meno rilevanti. Cioè, per dirla chiara, in sostanza coi parametri adottati non sono state tenute in considerazione i derivati che stanno nella pancia delle banche. Io sarei su questo più prudente, nel senso che direi sostanzialmente che aver focalizzato l'analisi sulle banche commerciali, insomma, banche, invece che e quelle... soprattutto sulle banche commerciali, ha avuto l'effetto di defocalizzare le grandi banche, il che naturalmente può essere un obiettivo. Ma è un obiettivo che... in che senso? Dico, il rischio sistemico... Se chi ha tanto capitale speculativo viene tenuto fuori per perché per ragioni non si sa quali, e poi invece le banche a vocazione commerciale, che sono quelle che prestano i soldi alla gente, alle piccole e medie imprese, vengono analizzate più spietatamente, diciamo così. Insomma, l'utilità dell'operazione qual è? Difendere le grandi banche, punto. Adesso non so se difendere le grandi banche oppure, diciamo così... No, io sono un po' diciamo provocatorio noi, per capire, insomma. Ma lei fa bene, ma insomma, in parte anche allontanare da sé l'amaro calice, perché se perché, dovessero ecco, essere, vengono messe sotto lo scrutinio queste grandissime banche, l'unico soggetto... È la BCE che dovrebbe di, mettere i soldi, diciamo, esatto, per dirla brutale. L'unico soggetto in grado di capitalizzarla è la BCE stessa. Cioè, quindi se la BCE decidesse che una grande banca, come la Deutsche Bank, come Paribas, avesse bisogno di una ricapitalizzazione dopo l'analisi degli stress test fatti con altri parametri, sarebbe lei che deve cacciare i soldi, insomma. Beh, insomma, se il rischio sistemico dei BNP Paribas viene stimato in circa 103 miliardi di dollari, beh, la cosa è un po' più complicata che non la carenza di 2 miliardi di Ponte dei Paschi di Siena, insomma. Quindi, se le ricapitalizzazioni chieste da alcune banche non sono servite a mettere in sicurezza l'Europa da una nuova crisi. Esattamente, io credo che la cosa sia ancora... Cioè, stiamo giocando con un cerino acceso che può dare fuoco a tutto. Potrebbe succedere, questo non c'è dubbio. E soprattutto mentre tutta l'attenzione dei media, ma degli stessi regolatori, è sulle disgraziate banche commerciali di medio taglia italiane, spagnole, eccetera, ci stanno questi potenziali. Gli altri stanno un po' più tranquilli. Questi potenziali buboni di rischio. Buboni di rischio e di sistema. Esattamente, di rischio sistemico per l'appunto, che sono in paesi non sospetti. Ecco, professor Boitani, vi voglio chiedere un'ultima cosa, ma ci sono dei collegamenti diretti tra i modelli di governance e il rischio? Perché, come dire, nel proporre in qualche modo questa trasformazione della governance e delle banche popolari in SPA, sembra che quello sia l'argomento forte. È così realmente? Cioè, trasformare le popolari in SPA è un vantaggio certo? Guardi, dai dati disponibili che sono stati elaborati appunto dal VLAD, diciamo, questa correlazione così chiara non emerge, c'è. Nel senso che dal momento che sul rischio sistemico ha un effetto notevole la dimensione, ovviamente in Italia è poca roba. È che il livello di rischio sistemico più elevato ce l'hanno quattro società per azioni, cioè sono Unicredit, Intesa, San Paolo a una bella distanza, le assicurazioni generali, il Monte dei Paschi di Siena. Cioè Unicredit più perché sono le più grandi. Quindi lei è favorevole o contrario a questa riforma, diciamo? Di non rispondere perché sono coinvolto nel consiglio di sorveglianza di una banca popolare. Va bene, qualsiasi risposta sarebbe giusto. Corretta. Speriamo che Enzo e tanti altri che ci scrivono siano soddisfatti del fatto che noi cerchiamo di dare tutte le posizioni in campo, e mi sembra che qui Mario lo scenario aperto da Boitani e da Savona sia uno scenario problematico, molto serio da tenere conto. Beh, è molto condivisibile sotto molti aspetti. Io ho qualche dubbio che il quantitative easing abbia un impatto così forte. Come si vuol far credere. Sì, anche per ragioni di asimmetria fiscale tra i vari paesi, come sapete tutti. Non c'è un unico sistema fiscale, non è armonico. È l'armonia fiscale, credo che sia il punto centrale. Perché senza l'armonia fiscale, Poi secondo me stiamo arrivando a un punto, dopo nelle bolle questo lo toccheremo, in cui questa politica monetaria ultra espansiva, bassi tassi eccetera, comincia a scricchiolare. L'economia di carta potrebbe crollare. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Volami addosso se questo è un valzer. Volami addosso qualunque cosa sia. Abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre. Inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare. Stancami. Ci racconti la metropolitana di oggi, Pietrangelo? La metropolitana si accompagna sempre al presagio del glicine. Oggi è successo che, seduto sui gradini all'ingresso della metropolitana Corneli a Roma, c'era il professore di filologia bizantina, fumava la sua sigaretta al mentolo ed era in compagnia di Ibn Hamdis, niente meno che lui, il poeta, che faceva da professore al professore spiegando la vertigine del bacio. E lì, nel bel mezzo della folla dei pendolari, Hamdis, che è cantore della nostalgia, dell'amore e della preghiera, offriva al collega di filologia bizantina l'esempio di Cyrano de Bergerac, notissimo l'apostrofo rosa, e poi quello del barone Rizieri, interpretato da Leopoldo Trieste in Sedotta e abbandonata, quando diceva: lumache da gustare, donne da baciare, non possono mai saziare. Come questa canzone di Ivano Fossati, Il bacio sulla bocca. Il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato. Caro Mario, un'altra vita quella di Pietrangelo. No, beato lui. È alta. Noi è siamo alta. Costretti e a tornare no. sulla terra, scusate, con le tue bolle. Scusate, di solito beato lui si dice agli scimuniti. Questa non lo sapevo. Dai, scivolete, dobbiamo lui, non capisce niente. Lo capisce tutto. Senti, senti, senti. Hanno suonato un po' di campana. Accidenti. High hopes, influence. Chi suona la campagna? Pietrangelo, per chi suona la campagna? Ernest Hemingway, non lo so. Dopo lo vediamo Hemingway. Insomma, De Luca ha vinto le primarie, Saviano le ha perse, ma alla fine il PD che fa? Candida presidente della regione il perdente, Cozzolino, per effetto della legge Severino. Oppure Renzi cambia la legge Severino. Cozzolino, Severino, c'è la rima di mezzo. Scusate, c'è però la scena madre di tutte le primarie, cioè quando in Sicilia vinse Vladimiro Crisafulli, non lo candidarono e candidarono poi un altro che risultò adesso nei guai. È un po' di guai, no? Gli hanno fatto... Vabbè, quindi sto Partito Democratico c'ha questo problema, insomma, non da poco. Allora, loro hanno un ottimo amministratore che è De Luca, mi certo, avviso, ma anche degli elettori, mi pare così, diciamo, a spanne. Grande vittoria. Ha apprezzato, ha vinto, eccetera, però il PD mi sa che in tema di giustizia deve chiarirsi le idee. Insomma, la legge Severino è da... Che sia necessaria una misura, no, di quel tipo, ok, ma è sbagliata, si vede, perché poi mette fuori gioco delle persone che sono delle ottime individualità. Beh, che sanno bella, amministrare. È una bella incertezza per ma per Renzi, secondo te come se la risolvono? Ma secondo me qualche variante della Severino potrebbe uscire. Salamino! Un messaggio. Non era vero! E perciò contrordine scolari, il decreto non si fa. La scuola infatti salta dall'agenda di Renzi ed è sempre... Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. È sempre la classe degli asini. Allora, soltanto un disegno di legge ci sarà oggi al Consiglio dei Ministri. Stefania Giannini, ministro della pubblica istruzione, si dice basita. E caro Giovanni, sai come la... Come è stata descritta stanotte lei? Come? Così. La vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentil farfalletta e tutta giuliva al volo sorpresa giuliva farfalletta. Il ministro Giannini, poveretta, non sapeva come fare, anche perché dovrebbe spiegare ai colleghi insegnanti che saltano le assunzioni di 160.000 precari della scuola. Sfuma l'assunzione clientelare, avrebbe detto Renato Brunetta. E insomma, chi di 80 euro ferisce, di 80 euro perisce. 44 deputati poi hanno fatto pressione a favore degli sgravi fiscali a favore delle scuole paritarie ed è cherosene per gli incendiari equilibri del Partito Democratico. Mario, conosci bene quella storia. Comunione e Liberazione, abbandonato Silvio Berlusconi, è contenta perché tutto il progetto di riforma, compresi gli scatti di merito, finiscono. Però l'unica cosa che si salva comunque è quella per le scuole paritarie. Che aveva già fatto D'Alema. Sì, sai, CL è bravissima in queste cose. Però cosa succede? Finisce male e il clima è duro. Tutti zitti! Tutti fermi! E guai se vi vedo muovere un muscolo del viso! Ruscelli! Fai da capoclasse! Torno subito! E che nessuno muova un muscolo! Nessuno muova un muscolo! Allora, per Renzi è un altro annuncio disannunciato, dimenticato, che non sarà mai rinfacciato. E resteranno perciò, caro Mario, soltanto le cose twittabili. Per esempio, educazione degli studenti all'autoimprenditorialità. E qui sentiamo gli studenti che già stanno imparando l'autoimprenditoriale. Poi, pensiero computazionale. Perfetto, imparano. E poi quello più, insomma, quello che ci riguarda, educazione ai media. Anche questo. Ecco, hanno imparato, stanno recitando la lezione. Unica consolazione, ancora una volta, la classe degli asini. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. Mario. Mario, Pietrangelo sta facendo una strage di cuori. Davvero? Sì, sì, no, qui abbiamo gli sms, no, mi vergogno a leggere, no, Maria, Maria, Simonetta, c'è una quantità di donne sciolte. Tutte sue amiche. Tutte beato. Sue amiche, vabbè, c'è un sacco di amiche che lo seguono. Dai, andiamo con le bolle, va? Sentite queste chitarre che sono qualcosa di eccezionale. Vabbè, questo è, come dire, il manco, è tutto, un grande gruppo italiano, progressive rock, per introdurre qualcosa in realtà di nuovissimo, e cioè che la rete non basta mai. Sai che Google ha deciso di farsi negli Stati Uniti la sua rete mobile di telecomunicazioni, e la ragione è molto semplice e molto istruttiva per l'Italia, secondo me, perché siccome gli operatori mobili sono indietro, ed è vero, se tu vai negli Stati Uniti ci sono zone dove il telefonino proprio non c'è campo, come suol dirsi, e la penetrazione di internet è molto bassa. La lezione è che Google si farà la sua rete, comincia con una cosa in piccola scala, loro dicono, certo. Ci credo poco, quando cominciano invece, certo, su larga scala, useranno tecnologie adatte per a i cosiddetti con Android, e nuovi servizi, e l'invito è alle compagnie telefoniche, beh, se volete vi, come dire, è uno stimolo anche per voi. Temo che dormano parecchio. Questo per l'Italia cosa significa a proposito del rame, come dicevamo, e così via? Che Telecom e gli altri devono darsi una gran svegliata, perché i titani si muovono senza confini e senza chiedere permesso il canzoniere. Deve essere finito ad ogni costo. Ne va della salvezza del quarto corpo d'armata e del viceré. Si farà il possibile. È l'impossibile. Non siamo forse i soldati di Napoleone? E lui ha detto che nel suo vocabolario la parola impossibile non c'è. Mix 24. La quota rosa di Sara Tardelli. Non so cosa mi è preso, però penso sempre alle partite IVA e io mi ripeto, Sara, tu hai la partita IVA, non sei una partita IVA. Ma non c'è niente da fare, essere a partita IVA in questo paese ti fa proprio diventare una partita IVA dentro. Cioè, io penso che l'anno prossimo uscirà un costume di carnevale e io lo comprerò per essere ancora più partita IVA. Comunque, mentre questa mattina cercavo di distrarmi venendo al lavoro, un autobus mi si para davanti e da una pubblicità spunta un faccione, era Corrado Passera, che diceva: Restituiamo il 50% dell'IVA a chi paga con il bancomat. La rivoluzione è possibile. Ecco Passera, capisco l'entusiasmo di una nuova avventura, però ricordo anche quello che ci aveva detto l'anno scorso. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio. Ma dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Non milioni, miliardi! Saranno promesse da marinaio? Ancora una bolla. Vada. Mario, rapida. Vada. Questi sono in negrita, sono sempre chitarre. Questo è Hemingway, un pezzo meraviglioso, molto bello, di un grande gruppo italiano. E Giovanni, dicevamo dei tassi e così via. Io vi leggo solo quello che dice Bill Gross nella sua, nel suo Outlook di febbraio. Bill Gross ha fondato Pink, oggi a Janus Capital, è uno dei guru del mercato mondiale. Ebbene, dice queste cose: gli investitori e i giocatori razionali non amano dar via il proprio denaro senza un rendimento congruo. Presto o tardi un materasso diventerà un rifugio più sicuro. Inoltre, aspetto ancor più importante del momento che i mercati e il settore finanziario sono in definitiva al servizio dell'economia reale, la crescita ne risulta ostacolata e minacciata. La domanda è: per quanto tempo vogliono andare avanti coi tassi negativi? È chiaro che sono contro il logico funzionamento dell'economia. Si venderanno un sacco di materassi, Salamini. Calcolare, numerare, contabilizzare. Angelino Alfano, ministro dell'interno, leader di NCD, ovvero Nuovo Centrodestra, ha spiegato un concetto definitivo in tema di calcolo, numeri e conti fatti alla mano rispetto alla verità delle cose. Ha detto: Matteo Renzi in 2 anni ha eliminato più comunisti che Berlusconi in 20 anni. Beh, certo. A parte il fatto che Berlusconi i comunisti li assume, li blandisce e li edita al punto da tutti fare il servizio completo comprando Rizzoli e così determinare l'editore unico delle coscienze, l'acuta riflessione di Alfano conferma l'acquisito quid in una forma conclamata perfino, e ci ricorda, e lo ricorda a noi tre che abbiamo le scuole alte, e insomma una scena definitiva, Giovanni, la ricorderai, nel tempo della destra di tutte le destre, cioè la scrivania di Indro Montanelli, dove tutti in piedi. La scrivania di Indro Montanelli al Giornale, dove campeggiava il busto di Stalin. Certo. E perché? Come lo spiegava Indro Montanelli, lo vogliamo ricordare agli ascoltatori? Ricordiamolo. Quando appunto tutti andavano da Montanelli, vedevano sto busto di Stalin e chiedevano: ma come, proprio tu metti il busto di Stalin? E Montanelli rispondeva: perché quanti ne ha ammazzati lui di comunisti? Nessuno. Vincitore del canzoniere, nessuno in vendita. No, c'è qualcuno che chiede: meglio la versione di Greco, ridateci la versione di Greco. Ah sì, di Greco. Ah certo, giusto, il Rocci. Mi dice la certosa a colpi di Rocci. Mi chiede da Lecco la certosa di Parma. No, caro, non ci siamo ancora. Siamo lontani e va bene. E allora in attesa la riproporremo domani. Intanto studiate, così può darsi che ce la facciamo. Oggi raccontiamo una storia di terrorismo e di intelligence. Siamo alle Olimpiadi di Monaco del 72 e un gruppo armato di palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti israeliani. Il 5 settembre, settembre nero, entra in azione. Alle 4:40 del mattino un gruppo di persone incappucciate penetra nel villaggio olimpico. Il comando si muove nei vari edifici, perlustrando i corridoi in cerca di atleti israeliani. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si perfone tra gli armi. Ecco, e da qui, è da qui che parte la caccia del Mossad israeliano agli attentatori, che saranno ricercati e uccisi tutti uno per uno in giro per il mondo nell'arco di 10 anni. La puntata di Piero Corsini a cura di Marina Milone, che intervista Maurizio Molinari. E per chiudere ancora Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.